Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Le imprese artigiane faticano a trovare lavoratori per oltre la metà dei profili professionali cercati. Secondo uno studio di Confartigianato, la nostra è la regione che presenta le maggiori difficoltà a reperire manodopera. Il caro bollette mette in crisi l'attività termale, lo stabilimento di Grado chiude dal 9 ottobre, chiuse a tempo indeterminato anche le piscine e le saune delle terme di Arta. È morto l'alpinista padovano disperso da ieri sul gruppo dello Jofuart. Tratto in salvo invece nella notte un cacciatore che aveva smarrito il sentiero nei boschi sopra Aptimis. Identificato ed arrestato il conducente che per sfuggire ai carabinieri aveva investito un militare e poi si era schiantato contro un albero procurando ferite gravi a una delle passeggere che viaggiavano con lui. Il problema delle aggressioni subite dagli autisti degli autobus, la presidente di ATP Belletti invita la giustizia a fare la propria parte. Sorgerà anche a Pordenone una scuola polmone dove verranno provvisoriamente trasferiti tutti gli studenti degli istituti in ristrutturazione e l'ente di decentramento che ha sostituito le province propone soluzioni per risparmiare sui costi energetici. Primi appuntamenti per Trieste Next, la rassegna che vede la presenza di centinaia di scienziati provenienti da tutta Europa. 12:31 minuti e 30 secondi, buona giornata da Eva Ciuc e da Paolo Roncoletta. Apriamo il nostro giornale radio con i temi dell'economia. Secondo uno studio di Confartigianato, Unioncamere è la nostra regione, nella quale c'è la maggiore difficoltà a trovare manodopera. Questo servizio però ve lo proporremo più tardi perché ancora non è disponibile. Cambiamo tema e parliamo adesso di energia. Il caro energia colpisce anche le terme in quanto strutture energivore. A Grado, per i costi insostenibili delle bollette, il centro termale si appresta a chiudere nei primi giorni di ottobre. L'annuncio è da parte del gestore di Grado Impianti Turisti, una scelta condivisa con la società Terme FVG, che in rete, oltre a Grado, gestisce anche le terme di Monfalcone e quelle di Arta, dove, per la stessa ragione, la parte wellness ha già chiuso a tempo indeterminato. Alle prese coi costi dell'energia quintuplicati, i gestori delle terme di Grado ne annunciano la chiusura dal 9 ottobre. Dai 160.000 agli 800.000 euro l'anno gli aumenti sulla bolletta del gas, fanno sapere, mentre per l'energia si è già passati da 150.000 a oltre 400.000 euro l'anno di previsione, solo per l'utilizzo della piscina termale ad acqua riscaldata a 30 gradi per l'inverno si stima un costo lievitato a oltre 80.000 euro al mese contro i 15.000 del vecchio contratto in scadenza a dicembre. Costi insostenibili a fronte di un'utenza di un centinaio di persone al giorno, afferma con sconcerto e preoccupazione il presidente della Grado Impianti Turistici Roberto Marin, che lascerà in cassa integrazione i suoi 8 dipendenti attivi nella struttura. La chiusura era comunque nell'aria, anche per aspetti tecnici, data la concomitanza col cantiere di ristrutturazione dell'ala delle vecchie terme, ma le bollette fuori controllo hanno accelerato la decisione, precisa ancora Marin. Sempre per il caro energia, già da inizio settembre sono chiuse a tempo indeterminato anche piscine e saune dell'area wellness delle terme di Arta, garantita sino ad oggi solo l'attività di tipo sanitario e riabilitativo. Terme FVG, che ha in gestione la struttura in rete con Grado e Monfalcone, sta valutando di chiudere del tutto fino a che non si troverà una soluzione. L'energia è uno dei nostri costi di bilancio più importanti. Se le bollette triplicano, nessuno può reggere, afferma il presidente della società Salvatore Guarneri, che definisce la situazione drammatica e che in serata valuterà col CDA come procedere anche per le terme di Monfalcone, che tuttavia al momento sembrano essere le uniche in grado di reggere agli aumenti, grazie al pozzo artesiano di acqua calda a cui attingono per alimentare le piscine, che abbatte di molto i consumi di energia. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora vi proponiamo il servizio sullo studio di Confartigianato nazionale, secondo il quale la nostra è la regione nella quale c'è la maggiore difficoltà a trovare manodopera per le imprese artigiane. Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana che ha più difficoltà a reperire manodopera in ogni settore e tipo di azienda. Lo certifica una elaborazione di Confartigianato su dati Excelsior Unioncamere. Non si trovano più della metà dei profili cercati, il 52,3%, il 5% in più rispetto a un anno fa e 10 punti percentuali in più rispetto alla media italiana. Prima della pandemia questa percentuale era intorno al 33%. Lo studio viene elaborato chiedendo ogni mese alle imprese se e quante assunzioni sono in programma. Non si tratta solamente dei soliti sospetti, tipo saldatori o operai specializzati. Quello è sì il settore con la percentuale di difficoltà di reperimento più alta. Ma andando a vedere le singole tipologie lavorative, si scopre che i più difficili da reperire sono dirigenti e direttori, anche per come è fatto il tessuto economico della regione, soprattutto aziende piccole, un titolare e 3 dipendenti. Seguono specialisti in scienze informatiche, fisiche e chimiche, farmacisti e biologi, tecnici della sanità, dei servizi sociali e dell'istruzione. Più ancora del caro bollette, il reperimento manodopera è la prima preoccupazione per le imprese artigiane con dipendenti, indica Confartigianato. Il suo presidente, Graziano Tilatti, mette in guardia dal rischio di una emorragia finanziaria nel breve periodo. Tra settembre e dicembre, indica, finirà la moratoria sui finanziamenti sospesi durante l'emergenza Covid e ripartirà il pagamento delle quote di capitale in rate mensili. Con ancora meno liquidità a disposizione, le imprese che offrono servizi continueranno a lavorare e ricercare personale. Chi vive invece di produzione, a fronte delle bollette da pagare, sarà costretto a fermarsi per non aggiungere debito a debito. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Siamo alla cronaca, è stato trovato senza vita l'alpinista padovano di 25 anni partito ieri all'alba dal rifugio Pellarini del gruppo dello Jof Fuart per compiere la scalata in solitaria dello Spigolo da Iepeters alla Torre Madre dei Camosci. Al momento le squadre del soccorso alpino di Cave del Predil, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco stanno cercando di recuperare il corpo. L'alpinista sarebbe deceduto dopo aver traversato un ponte di neve che ha ceduto. Ci sono volute 7 ore per portare in salvo un cacciatore di 81 anni, residente a Treppo Grande, che si era smarrito su un terreno impervio tra i boschi di Attimis. I suoi compagni hanno dato un importante contributo per localizzarlo, perché la zona è priva di segnale telefonico. L'uomo era finito su un terreno impervio, cosparso di rovi e tronchi d'albero finiti a terra. Una volta raggiunto dai soccorritori, 9 tecnici del soccorso alpino di Gemone e una decina di vigili del fuoco, l'anziano è stato sistemato su una barella, recuperato con l'aiuto delle corde, con la tecnica del contrappeso per 150 metri di dislivello su un terreno scosceso e scivoloso fino a raggiungere il livello della strada, e durante le operazioni un tecnico del soccorso alpino è scivolato e si è infortunato. L'operazione si è conclusa all'1 di notte. È stato identificato e arrestato il presunto responsabile dello speronamento di un'auto dei carabinieri, del ferimento di un militare nell'incidente nel quale una donna è rimasta ferita. Si tratta di un cittadino italiano di 23 anni non domiciliato a Trieste. Il fatto è avvenuto una decina di giorni fa. I carabinieri hanno inseguito una vettura che procedeva a velocità elevata, riuscendo a bloccarla in via San Giacomo in Monte. Il conducente ha finto di fermarsi e poi è fuggito, speronando l'auto delle forze dell'ordine, investendo un militare. Un altro carabiniere ha esploso accidentalmente un colpo di pistola mentre finiva a terra, colpendo il paraurti dell'auto inseguita. La fuga è terminata in via d'Alviano, dove l'auto è finita contro un albero. Sul posto i carabinieri hanno trovato 3 passeggere, una delle quali ferita in maniera abbastanza seria, mentre il conducente aveva fatto perdere le proprie tracce. Le 3 giovani hanno collaborato con i carabinieri, consentendo di ricostruire l'accaduto. Avevano chiesto più volte al conducente di fermarsi e di farle scendere. Per il 23enne una sfilza di accuse, tentato omicidio, sequestro di persona, lesioni personali, simulazione di reato, resistenza pubblico ufficiale, omissione di soccorso in caso di incidente e di guida senza patente con recidiva nel biennio. È stato poi portato nel carcere goriziano di via Barzellini. Telecamere sugli autobus e abitacoli di guida chiusi non sono sufficienti per far fronte alla crescente situazione di insicurezza in cui sono costretti a lavorare gli autisti dei mezzi pubblici. Occorre che anche la giustizia faccia la sua parte. Lo sostiene la presidente dell'azienda di trasporto pubblico APT di Gorizia, Caterina Belletti. Sentiamo. L'ultima aggressione è avvenuta 2 martedì fa a Grado, un conducente APT preso di mira, una situazione diventata ormai insostenibile. Per i conducenti degli autobus nell'Isontino, così come in tutta la regione, andare al lavoro e mettersi al volante dei mezzi è sempre più un azzardo. Ingiurie e anche assalti sul piano fisico con spintoni e percosse non sono affatto rari. Pochi giorni fa i volontari del comparto mobilità urbana sono scesi in sciopero per protestare contro le condizioni di continua insicurezza in cui sono costretti a lavorare. Più che spaventati, siamo demoralizzati, ci dicono alcuni autisti di APT a Monfalcone, perché non vediamo riconosciuto il nostro servizio pubblico e perché ci accorgiamo che la situazione non è destinata a cambiare. Lo scorso marzo c'è stato un incontro a Roma col governo per mettere a punto misure a protezione degli autisti, ma da allora la situazione è cambiata poco. Vero è che APT ha provveduto sugli autobus urbani a installare telecamere per identificare chi sale e chi scende e a realizzare degli abitacoli di guida chiusi da un vetro, ma tutto questo non basta, sottolinea Caterina Belletti, presidente di APT. Anche la giustizia deve fare la sua parte in maniera efficace, perché le regole a difesa dei lavoratori e dei passeggeri ci sono, occorre però farle rispettare. Monfalcone, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora il tempo, giornata splendida con cielo sereno su tutta la regione, le temperature registrate alle 12. Abbiamo a Trieste 17 gradi e 8 decimi, mare poco mosso con temperatura di 22 gradi e mezzo. A Gorizia 18 gradi e mezzo, 18 a Udine e a Pordenone, 17 a Tolmezzo, poco meno di 14 a Forni di Sopra, 9 gradi e mezzo a Tarvisio e a Sappada, in quota 7 gradi e mezzo sullo Zoncolan, 3 sul Monte Lussari, 18 gradi a Lignano e a Grado. Le previsioni oggi pomeriggio su Piano Rai Costa, cielo sereno, sui monti poco nuvoloso con maggior nuvolosità nel pomeriggio, venti a regime di brezza. Domani sulla fascia alpina cielo poco nuvoloso con tempo migliore in quota, sul resto della regione cielo variabile, brezza sulla costa. Potrà accogliere fino a 800 studenti a partire dal 2024 la scuola Polmone di Pordenone in fase di costruzione, e il commissario degli EDR, cioè l'ex province, parla anche di interventi per il risparmio energetico necessari da subito. Una scuola a polmone da 825 posti e 8,8 milioni di euro. Con il commissario dell'ente di decentramento regionale di Pordenone, Augusto Viola, abbiamo visitato il cantiere della nuova struttura di via interna. Operativa dal 2024, sarà un modello di efficienza energetica. Il commissario Viola: consentirà, una volta ultimata, di trasferire aule e ragazzi del Grigoletti, che sarà oggetto di interventi di antisismica e di efficientamento energetico, ma non solo, perché poi sarà il turno di altre scuole di Pordenone e quindi avremo una struttura modernissima ad alto efficientamento energetico, antisismica, pressoché autonoma a livello energetico, un fiore all'occhiello per Pordenone, ma non solo, anche per tutto il Friuli occidentale. Altri importanti interventi antisismici e di efficientamento energetico sono previsti per il polo scolastico di Sacile, a Maniago, Bruniera, Spilimbergo, per un totale di 35 milioni di euro. Scuole più sicure ed efficienti in futuro dunque, ma in un incontro con i dirigenti scolastici il commissario Viola ha proposto, sempre nel rispetto dell'autonomia scolastica, un documento con interventi sin da subito: individuazione di un referente energia per ogni scuola, riduzione dell'illuminazione dei piazzali esterni, della temperatura interna a 19 gradi e spegnimento del riscaldamento il sabato pomeriggio e la domenica. Se poi avremo un po' di freddo ci vestiremo un po' di più, e quindi l'appello che io rivolgo anche alle famiglie, insomma, di condividere questo percorso. Per Pordenone io ho una bolletta energetica che chiude quest'anno a oltre 3 milioni. Le proiezioni ci dicono che sarà raddoppiata nel 2023. È chiaro che nel momento in cui io pago la bolletta energetica di questo tipo non ho i soldi per gli investimenti, e quindi dobbiamo puntare a un grande risparmio. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Scienziati e ricercatori di tutta Europa hanno invaso Piazza Unità di Trieste con 40 stand allestiti per il Festival della Ricerca Scientifica. Continuerà fino a sabato Trieste Next, la vetrina dell'innovazione e della ricerca applicata. I confini della scienza, innovazione e ricerca, limiti etici e nuove frontiere, il tema dell'undicesima edizione. Energia, sostenibilità, salute, cambiamento climatico, ma anche i progressi della ricerca oncologica, la space economy, la tecnologia quantistica, filo rosso, la discussione sui limiti della scienza. Non solo dunque le nuove sfide della ricerca a Trieste Next, inaugurata come di consueto dalle attività per le scuole all'interno del villaggio Trieste Città della Conoscenza in Piazza Unità, esperimenti, laboratori e dimostrazioni che coinvolgono bambini e ragazzi, innumerevoli le proposte di tutte le realtà del sistema scientifico triestino. Qualche esempio: l'orecchio bionico dell'Ateneo Giuliano, la caccia al tesoro spaziale dell'INAF, la levitazione magnetica del sincrotrone. Tanti gli appuntamenti scientifici. Nel pomeriggio si parlerà di alimentazione e cancro, come restare in salute e rendere più efficaci le cure. Novità di quest'anno, la mostra organizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile sui terremoti d'Italia, un percorso espositivo che rimarrà aperto al Centro Congressi in Porto Vecchio fino alla Barcolana, in una regione che conserva vivo il ricordo del sisma del 76 e che da allora ha intessuto una fitta rete di azioni e sinergie per affrontare il rischio sismico e le sue conseguenze. Nella rassegna anche due simulatori progettati per riprodurre il movimento sismico. I visitatori potranno vivere in sicurezza l'esperienza del terremoto osservandone da vicino gli effetti. Trieste, Elisabetta Zaccolo, TGR Friuli Venezia Giulia. Occupiamoci ora del restauro della ex caserma Montezemolo a Palmanova, restauro finanziato con i fondi del PNRR, un progetto che include nuovi spazi urbani e nuove opportunità di crescita per il sito UNESCO. Palmanova sarà uno dei 5 siti nazionali per il ricovero e recupero di opere d'arte in caso di calamità naturale. Succederà grazie al finanziamento da 20 milioni di euro del PNRR per riqualificare l'ex caserma Montezemolo, un'area da 50.000 metri quadrati trasformata nell'unico sito del nord-est all'interno del progetto nazionale Recovery Art, una fortezza dove custodire e recuperare le opere d'arte italiane in caso di terremoti, inondazioni, frane. L'ex caserma Montezemolo sarà così laboratorio di restauro, sede di ricerca ed esposizione dei manufatti artistici del nostro paese. Il finanziamento permetterà di realizzare in 6.600 metri quadrati di superficie coperta zone d'accoglienza, deposito, laboratori e uffici, ma anche zone per esposizioni temporanee, foresteria e aule didattiche. Il progetto, che ha già ottenuto il via libera dalla cabina di regia del PNRR, è al vaglio della Commissione europea per l'ultimo passaggio formale. Palmanova, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Ultimi due giorni di campagna elettorale con numerosi appuntamenti in regione. Oggi daremo spazio al Partito dei Comunisti Italiani, Più Europa e Impegno Civico. Sull'Ucraina è importante non solo decidere con chi schierarsi, ma anche come farlo. Sul fronte economico l'Europa deve decidere che posizione prendere. I diritti umani vanno difesi a prescindere da qualsiasi ideologia. Sono i punti qualificanti esposti da Più Europa. Fabrizio Manganelli. Se vogliamo non sostenere gli ucraini in questa guerra di aggressione, che altro non vedo come chiamarla, perché è chiaro che è una guerra di aggressione, noi dobbiamo essere schierati soltanto nella difesa di certi diritti. Non si possono tralasciare il diritto di difendersi o di scegliere delle popolazioni. Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, abbiamo delle aziende importanti multinazionali in regione che possono dare gli strumenti alle piccole e medie aziende di trovare, diciamo, una loro collocazione a livello scientifico e tecnologico. Per quanto riguarda il commercio, credo che la zona nostra, no, sia per quanto riguarda il turismo che per gli altri commerci, la zona centrale, la prossima Europa centrale. Impegno Civico Di Maio, Centro Democratico, vuole in Unione Europea il tetto massimo al prezzo del gas, propone il decreto taglia bollette e spinge per l'istituzione del salario minimo e del salario equo. Sulla guerra in Ucraina vuole una posizione chiara da parte dell'Italia. Il cofondatore di Impegno Civico, Bruno Tabacci. La differenza da rispetto allo scarso buonsenso che c'è in giro, no? Tutta la polemica che c'è stata nei mesi scorsi sull'invio di aiuti anche militari all'Ucraina in omaggio alle decisioni assunte in Europa, e oggi deve riscontrare che quegli aiuti hanno funzionato, nel senso che hanno reso possibile la difesa, la resistenza degli ucraini. Quindi questo è un risultato umano, politico e istituzionale di grande rilievo. Se c'è ancora qualcuno che pensa che in omaggio a Putin ci si possa girare dall'altra parte, vabbè, lasciamo che queste anime belle pensino anche a queste cose assurde che si sostengono e si dicono. Il Partito Comunista Italiano punta a difendere gli interessi sul lavoro. Stojan Spetic. Si difendono essenzialmente approvando una legge sul salario minimo, battendoci contro il neoliberalismo che provoca chiusure e spostamenti di fabbriche come quella della Wärtsilä di Trieste. Sul piano della politica internazionale, qual è la vostra posizione? Noi siamo contro la guerra e contro l'invio di armi che alimenta questa guerra. Noi pensiamo che l'unica soluzione sia la pace attraverso trattative. Il Partito Comunista Italiano non si presenta in Friuli Venezia Giulia, ma dà un consiglio di voto. Per affinità programmatica noi guardiamo all'opposizione popolare, quindi alla lista di De Magistris. Francesca Vigori, TGR Friuli Venezia Giulia. La pagina della cultura, le fiabe tradizionali al centro della nuova stagione Teatro Ragazzi della Contrada di Trieste, presentata in mattinata dopo 2 anni, niente più streaming, ti racconto una fiaba, gli spettacoli di domenica saranno in presenza al 100%, mentre lunedì e martedì tornano a teatro le scuole con A Teatro in Compagnia. Entrambe le rassegne si svolgeranno al Teatro dei Fabbri e al Bobbio. Si parte il 23 ottobre con la produzione La Contrada, i musicanti di Brema. Ma sentiamo la responsabile del settore per ragazzi, Enza De Rose. Io sono molto contenta perché dopo 2 anni, non dico fermo, perché comunque noi ci siamo messi all'opera anche durante il Covid con degli streaming, però finalmente torniamo al 100%, una stagione ricca ogni domenica, lunedì e martedì per le scuole, quindi siamo tornati al 100% delle nostre forze. Come sarà la nuova stagione e quali titoli? I titoli sono molte delle nostre produzioni, quindi produzioni che girano per tutta Italia, come i musicanti di Brema, Biancaneve, che è il nostro cavallo di battaglia, anche Le Pulci hanno la tosse di Fulvio Tomizza, ma ci saranno anche molte compagnie ospiti che vengono da tutta Italia. I titoli per lo più sono fiabe tradizionali, perché parlando con le maestre abbiamo valutato il fatto che purtroppo i bambini non conoscono più tanto le fiabe tradizionali, e quindi noi puntiamo su questo, no? Ormai guardano molta televisione e in televisione ci sono poche fiabe tradizionali. Perché i ragazzi dovrebbero tornare a teatro? I ragazzi dovrebbero tornare a teatro perché fa bene il teatro, fa bene all'anima, fa bene allo spirito, ma fa bene soprattutto alla fantasia. E poi quest'estate che siamo ripartiti, tutti i teatri sono ripartiti molto molto bene, abbiamo visto che il pubblico di famiglie aveva proprio fame di cultura. Sarà presentato alla Biblioteca Comunale di Muggia alle 18.30 il libro L'uomo che raccontava il basket di Sergio Taucia, icona del giornalismo sportivo, noto per le sue telecronache a TV Capodistria e per quelle in compagnia dell'allenatore Dan Peterson. Dialogherà con l'autore Myrim Keber, programmista regista dei programmi sloveni della sede RAI di Trieste. Si tratta dell'ultimo degli appuntamenti di Libri in Giardino organizzati dalla Biblioteca Comunale di Muggia. Alle 12.52 minuti termina l'edizione meridiana del giornale radio regionale, edizione redatta da Eva Ciucca e Paolo Roncoletta, in redazione ha collaborato Samantha Gon, assistenza tecnica di Bruno Montevecchi. Appuntamento all'edizione pomeridiana con Andrea Vardanega alle 15. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti e buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.